Certo che noi attori abbiamo sempre un sacco di tempo a disposizione per venderci. Infatti, volendo, posso essere anarchica, ideologica, di destra se serve o di sinistra, se il luogo lo comanda. Un ideale venduto a minuti. Spesso questo è il nostro mestiere, che varia a seconda del luogo e del pubblico. Un attore oggi può non essere bravo, ma ha l'obbligo di essere un grande osservatore. Tutti grandi osservatori, noi artisti. Non si studia più uno spettacolo, no, non è poi così importante. Ma il luogo dell'esibizione sì. Chi ci guarda? Se c'è la TV? Quale? Del resto, noi siamo nati come buffoni di corte. E la nostra corte oggi è immensa. Piccoli e grandi re dalle poche idee, ma dalle immense unghie. L'immensità della nostra corte dove le parole ormai puzzano di falso ed i vassalli si sprecano è direttamente proporzionale alla nostra smania di venderci ed ha per risultato una immane gesuitica solitudine. Molto facile essere inutili, quasi impossibile essere scomodi. Io sono un animale esotico, sono un gorilla senza il senso del ridicolo, sono giovane ma sono preistorico, sono un animale da palcoscenico. Vengo da secoli di giungla e di cautela con l'occhio della lince. Osservo e servo la clientela, scruto le sagome sopra le poltrone, e so dare al pubblico sempre ciò che vuole. Canto, ballo, rido e faccio la ruota, affilo gli artigli e faccio le fusa, e scalo la catena alimentare. Un po' volpe, un po' lupo e un po' maiale. Sono un camaleonte, prendo il color di chi mi sta di fronte, volutamente solo e complice del mio destino. Se paghi il tuo biglietto, puoi guardarmi da vicino. Sono un animale finto che ancora non si è estinto. Guardarmi da vicino, sono un animale morto, ma nessuno se n'è ancora accorto. Ciao. Chi sei? Io? Chi sei tu? Che ci fai ancora qui a parlare di sogni? Quali sogni? I tuoi? Quella miscela di idee che ti prepari a dare al pubblico? Ma non sono sogni. Sono i miei pensieri, le mie riflessioni, le mie esperienze, insomma, la mia vita. Fammi capire, tu stai iniziando uno spettacolo partendo da ciò che tu sei? Beh sì, perché non va bene. Sei patetica, ma dove vivi? Guardi che io non sono qui per farmi offendere da lei. Sì, ma perdonami se insisto, ma dovresti aggiornarti. Vita, pensiero, esperienza, addirittura riflessioni. Ma guardati intorno, esci di casa, attraversa sulle strisce pedonali e, se sopravvivi, leggi un quotidiano, accendi la televisione, guarda un notiziario, insomma informati. Se ti informi, ti accorgerai che non esiste più alcun motivo per voler continuare a cambiare il mondo. Ma io non voglio cambiare il mondo. Io non voglio cambiare proprio nessuno. Certo, questo non significa che io mi imponga di essere stupida. Ma io se tornassi indietro un tentativo lo farei. Vuoi mettere così bello essere vacui? Vuoi un esempio? Cosa c'è di più bello che sapere che sul pianeta il petrolio si sta esaurendo e comprarsi un SUV? Mi arrampico piano piano, raggiungo il posto di guida, indosso i miei Ray-Ban e via, ignaro verso il distributore. Ray-Ban, Dolce Gabbana. Come Dolce Gabbana? Eh beh sì, i Ray-Ban erano trendy ai tuoi tempi. Oggi le firme sono Dolce Gabbana, Safilo, Diesel. Ai miei tempi. Ecco, ai miei tempi si poteva cambiare il mondo. E infatti l'avete cambiato. Eccolo qua. Bravi. Vabbè, qualcosa è andato storto. Ma ce l'abbiamo messa tutta, eh? Tutta. Abbiamo chi? Tanti. Ah, ma allora è a voi che hanno dedicato tutte queste fondazioni. Ma lei mi sta facendo perdere tempo. Io sono qui per uno spettacolo, non per la rivoluzione. Zitta, non dire quella parola, porta sfiga. Chi l'ha detta? O anche chi l'ha solo pensata? Non esiste più, ha perso. Questa è l'epoca della trasformazione, del rinnovamento, del cambiamento. Lo so, sono parole vuote, ma basta dirle e ti votano. Ma lei mette sempre tutto in politica. Ma lo sai che io credo di cominciare a capire chi sia lei? Io sto parlando d'amore, di sensibilità, di femminilità, di perdono, di figli. Poveretta. Ma come poveretta? Ma non sono le cose più importanti nella vita? Ah, non saprei. Può darsi, non me lo sono mai chiesto. Ma magari. Ma vai. Thank you.

quanto un applauso. E notti lunghe come un falso arrivederci. A volte non avevo le carte per il gioco del giorno successivo, né la forza per cominciare una nuova storia. Mi è capitato di bleffare e mi è capitato di fingere di perdere anche con carte imbattibili. E di giorno, oh, di giorno ho detto verità e menzogne e ho riso di cuore almeno quanto ho pianto. Non ho mai voltato le spalle ad un amico, né ho mai tradito un amore, purché fosse un amore sincero. Quando non ho potuto farne a meno, mi sono finta stupida, ma non ho mai rinunciato a sbagliare per paura di pagare un conto. Ho capito tardi il significato di essere donna, ma oggi rifarei esattamente ciò che ho fatto e riattraverserei i miei errori uno ad uno. Fermerei il tempo per un attimo di tenerezza per i tuoi occhi svegli che mi guardano assonnata. E tu mi vieni a dire che una donna, ma cosa ne sai tu? Cosa ne sai? Signore, mi vuole stasera? Ieri è passato e domani non c'è. Si ricorda quel giorno di tanti anni fa, quell'oltre la porta del suo appartamento, felici sposini di certo spaesati e un po' timorosi. Non si ricorda, troppo tempo è passato, eppure promise una volta per tutte l'amore, l'amore, l'amore per sempre. E adesso lei dice di esser deluso, che sono cambiata, che quella donna di tanti anni fa l'ha persa per sempre. È stata distratta da 100 altre cose diverse da te, diverse da te. Bugiardo imbroglione lo sei sempre stato, ma ora di più. Ma non ti ricordi il tuo capufficio, le sere da sola, i baci mancati, la mamma che chiama e la tua segretaria? Il giornale da leggere, la televisione, la pressione alta, non fare la notte, poi questo, poi quello. Il sesso distratto e la mia delusione. La spesa alla COP e le cene in silenzio, i figli, la scuola, il mutuo di casa. E la tua carriera, la macchina nuova, lo sport in TV, il ciclo amatore, la pesca sportiva, le rate in scadenza, andare per monti, gli amici ogni tanto, e poi il pocherino, l'amante nascosta, papà che sta male, il figlio che fuma, la figlia imbecille che scappa di casa, la zia lontana, di nuovo la mamma, e il nuovo lavoro. Le riunioni la sera e la televisione, lo sguardo lontano, la cena alle 8 e la colazione. Aspettami, cara, ritorno domani. E il tuo cellulare incollato all'orecchio e i tuoi messaggini. Tutta la vita una somma di scuse. Tutta la vita una somma di scuse. Tutta la vita una somma di scuse. Mio caro signore, stasera è finita e la sua distrazione la tenga per sé. Domani c'è il sole, domani c'è il sole, ma solo per me. Domani c'è il sole, domani c'è il sole, ma solo per me. Domani c'è il sole, domani c'è il sole, ma solo per me. Non tutte le sere sono uguali. Alcune trascorrono facilmente seguendo la storia che ho tracciato di giorno. Altre fanno storia a sé e si scompongono in frammenti indipendenti dalla mia volontà e dalla mia esperienza. Io le chiamo sere bastarde. Quelle rare sere mi sommergono di colori che non fanno parte della mia tavolozza e di voglie che non ho di solito. E sono bastarde perché non saprei dire assolutamente niente della loro provenienza né della loro esistenza. Vengono da un mondo mio ma che io non conosco come tale. Vengono da spazi inesplorati, da distanze inaudite, da sensazioni che non ho provato e da vita che non ho vissuto, da facce che non ho visto e da parole che non uso. Quelle sere vengono da strade che non ho percorso e da uomini che non ho incontrato, da canzoni che non ho scritto. Di certo vengono da pensieri che io non ho fatto. Eppure sono le sere più vere della mia vita e mi assomigliano come nessun'altra. E sono bastarde come me. Per distrazione o per incoscienza, per troppa forza o per debolezza, per una lucida coincidenza, per consuetudine o per incertezza, per un istante lungo una vita, e per la pioggia contro la vetrata, per quella tregua che ci raccoglieva quando la guerra ormai era finita. Perché è così che va ogni stagione il suo mistero? Perché così si fa? Si parte per voltarsi indietro dopo aver provato tutto e non aver capito niente. Ci si incontra per riempire il presente. Perché è così che va? Il caso ha sempre le sue ragioni. Perché così si fa? Si vola per cadere in piedi dopo aver sfiorato il cielo e dopo aver toccato il fondo. sembra quasi che tutto quanto abbia un senso. Di tenerezza che a sorpresa un giorno me tuo padre e che ci ha stretti dentro una carezza tra il deserto e la stella polare, perché si è complici di ogni rimpianto e viaggiatori di qualche distanza, e dopo aver navigato tanto finiamo soli e nudi in una stanza. Perché così che va, ogni stagione ha il suo mistero. Perché così si fa, si parte per voltarsi indietro. Dopo aver provato tutto e non aver capito niente, ci si incontra per riempire il presente. Perché così che va, ogni ragione ha il suo mistero. Perché così si fa, si vola per cadere in piedi. Dopo aver toccato il cielo, dopo aver toccato il fondo, sembra quasi che tutto quanto abbia un senso. E dopo aver sfiorato il cielo, dopo aver toccato il fondo, tra le cose lasciate fuori e le cose tenute dentro, sembra quasi che tutto quanto abbia un senso. Tutto quanto abbia un senso. Quando sei nella mia vita mi sembra tutto meraviglioso. Dicesti proprio queste parole. Stavamo mangiando una pizza semplicemente. Lo facevamo spesso, almeno una volta alla settimana. Ed io rimasi con il morso a metà, come sospesa. E mentre sollevavo gli occhi per guardarti provai due o tre sensazioni diverse. La prima: oddio, e adesso cosa gli rispondo? La seconda: beh, adesso devo guardarlo negli occhi. E i miei devono essere almeno pieni di gratitudine. La terza: eppure io questa frase l'ho già letta da qualche parte. Fortunatamente i miei occhi allenati alle trappole si inumidirono come febbricitanti. E tu, soddisfatto dell'effetto delle tue parole, girasti leggermente gli occhi alla partita che stavano trasmettendo alla televisione della pizzeria. Mai stata così grata alla TV come quella volta. Comunque la questione ormai era stata posta. E mentre tu fingevi di essere con me, torcendo gli occhi alla televisione, pensai: che bella responsabilità. Gli servo per avere una vita meravigliosa. Vabbè, però carino, no? Già. Ma io voglio stare nella mia vita. Io ho sempre pensato che stare insieme ad un uomo significasse stare insieme, ognuno con le proprie particolarità, no? Lui pensa ad una fusione, io penso ad un incontro. Già, ma io ho poi davvero così voglia di incontrarlo. Ma tu guarda questo.

perché di loro sarà il regno dei cieli. Gli ultimi sono quei miliardi di persone che popolano il pianeta, ma che non hanno più alcuna possibilità di determinarne il futuro. Milioni di anni fa erano una specie. Oggi spippolano su telecomandi sperando che la loro avventura finisca il prima possibile. Non che gli ultimi siano molto diversi dai primi. Infatti ne condividono gli scopi, gli obiettivi, gli hobbies. Se solo qualche decennio fa gli ultimi combattevano per la sopravvivenza, oggi li vedi correre vestiti da ginnasti mentre portano a spasso la loro cellulitica disperazione. Gli ultimi, notevolmente più poveri di sempre e spogliati di qualsiasi autodeterminazione, sorridono se riescono a non pensare, felici di essere assolutamente, volutamente e felicemente schiavi. Gli ultimi, avendo cancellato l'intelligenza, non sanno di essere più numerosi oggi che in qualsiasi altra epoca. Qualcuno di loro aspira alla barchetta, e talvolta la possiede, dove trasportare nelle poche ore libere suocere siliconate, mogli imbarazzanti e figli talmente rimbecilliti dalla PlayStation che non hanno mai alzato gli occhi per guardare un tramonto. Gli ultimi amano fornirsi spesso di gigantesche auto per percorrere quei pochi chilometri che li separano da un letto dove gettarsi sfiniti. Auto che pagano con il secondo lavoro, fatto immancabilmente a nero. Gli ultimi hanno anche delle complici, omologate come mogli, anch'esse ultime, e per giunta annoiate da una vita dedita ad un tale che pensavano marito, amante, compagno, e che invece si è rivelato essere un figlio in più e talvolta anche un po' sessuato, convinti che l'ipocrisia sia la libertà e che piegarsi a 90 gradi sia la democrazia. Gli ultimi sono sicuri che questa sia la forma migliore in cui vivere. Gli ultimi hanno soppresso il loro pensiero per prenderne a prestito uno qualsiasi, dal primo eroe televisivo strapagato, ovviamente, da chi lo sta usando per i propri loschi scopi. Gli ultimi, ritenendosi ormai esseri superiori e affrancati da qualsiasi bisogno di critica individuale, e troppo deboli per sopportare il peso di un cervello pensante, trattano il pianeta come un bene da consumarsi ogni giorno. Poco importa se per questo hanno perso la capacità di essere individui, animali, specie. La minoranza gode la sua fertile stagione di abbondanza. La minoranza siede in una comoda e stordita sonnolenza. La minoranza crede fermamente nella propria sussistenza. La minoranza spiega le sue ali tra i confini di una stanza. La minoranza porta nelle vene il seme dell'appartenenza. La minoranza sta al balcone di una rispettabile apparenza. La minoranza cura il bel giardino della propria convenienza. La minoranza naviga nel mare calmo dell'indifferenza. La minoranza vive sul confine della pubblica decenza, alla pancia piena di caviale e di arroganza, sa perfettamente mantenere la distanza, la beneficenza di una briciola si avanza, si avanza. La minoranza guarda il mondo intorno con sospetto e diffidenza. La minoranza tiene tutti gli altri fuori dalla sua coscienza. La minoranza mostra le sue stimmate e poi ruba con prudenza. La minoranza non è perseguibile di fronte all'evidenza. La minoranza vive sul confine della pubblica decenza, alla pancia piena di caviale e di arroganza, sa perfettamente mantenere la distanza, fa beneficenza di una briciola, si avanza, si avanza. La minoranza obbliga il pianeta a un esercizio di pazienza. Ama il dire e il fare, ma non sa la differenza. La impressione, il sangue, non sopporta la violenza. Coglie a piene mani i suoi gettoni di presenza. Si trasmette senza interruzione o interferenza. La minoranza cala giù dall'alto come un atto di clemenza. È depositaria di millenni di ignoranza. Milita al servizio di un'oscura provvidenza. La minoranza vive sul confine della pubblica decenza, alla pancia piena di caviale e di arroganza, sa perfettamente mantenere la distanza, fa beneficenza di una briciola si avanza, se avanza. La maggioranza. Che cos'è il teatro oggi? Una volta, cara, ho comprato 2 biglietti per... E io onorata, felice, gratificata. Poi magari al ritorno beviamo qualcosa, un biscotto alle mandorle, 2 parole. E poi... Poi... Normale, no? Automatico. Certo, caro, grazie, che bel pensiero. Era tanto che avevo voglia di passare una bella serata con te. Il teatro, l'amore, un po' di sesso magari, ma con galanteria, con eleganza, volendosi bene. Oggi no. Oggi il teatro fa male all'amore. Non si comprano più i biglietti, ma i ticket. E già questo si crea il gelo. Cosa può mai risponderti una donna? Cara, ho preso 2 ticket. Dove, cara? Su internet, a box office? Niente, più niente. A teatro magari poi ci vai, ma ci vai... Consumi, basta, non ti vuoi bene. Ammesso che tu riesca a superare il trauma di un indicibile e inconfessabile imbarazzo dovuto alla tristezza del niente con cui combatti. E finalmente ci sei. Il teatro. Sempre lì. Le luci. Sempre le stesse, per fortuna. Vedi, cara, dobbiamo fare uno sforzo per uscire la sera, ma poi la resa dei conti, il teatro è ormai in mano a ragionieri oscuri, peggio, a imbalsamatori esperti di sopravvivenza e autoriproduzione, a politici senza vergogna e a miopi e accattoni nulla tenenti, salvo che intere montagne di presunzione e di esperienze mai viste, mai fatte, mai vissute. Sciocchi personaggi riciclati da qualcosa di precedente, precedente, precedente e così via. Aziende di perdite previste e di finanziamenti dispersi, uffici stampa e giornalisti assenzienti, lobbies di imprenditori con la voglia di far cultura, per disperazione o per impotenza o per favorire questo o quello, ammesso che coloro votino. Insomma, gente che a teatro ci va, ma solo con la fascia tricolore e se c'è la TV. Decoro Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare nel loro grande mare, com'è profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce. Pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare, com'è profondo il mare. Certo, chi comanda non fa distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare. Stanno umiliando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno piegando il mare. Del presente che si fa futuro nasce la vita e il tempo degli uomini. Solo il caso determina la buona o la cattiva sorte. Semplicemente un segno positivo o negativo. Altro che destino. Questa parola l'abbiamo inventata per giustificare la nostra presunta superiorità nei confronti di tutto il resto. Piante, animali, cose apparentemente inanimate. Ma la presunzione è parente stretta della vigliaccheria. Ecco allora che il destino serve a darci coraggio. Come se vivere non bastasse. Si voglia o no, tutto è relativo e quindi privo di solidità. Per questo l'umanità ha inventato gli dèi, per respingere l'idea e la paura del provvisorio. Eppure, pur terrorizzati dal provvisorio, rapiniamo le ricchezze che la terra ci mette a disposizione. Eppure facciamo guerre fratricide. Eppure ci inventiamo pessimi regimi che chiamiamo di convivenza civile organizzata o democrazia. Ma non vi pare strano che esseri apparentemente intelligenti che si fregiano del diritto di chiamarsi uomini competano per prevalere l'uno sull'altro? E non vi sconvolge che per farlo arrivino persino ad uccidersi o a rendersi schiavi? Io non credo che sia sufficiente autonominarsi uomini. Io credo sia necessario fare qualcosa per esserlo. Guarda, guarda il mondo che non è più tondo, corre distratto verso l'ultimo atto. Ecco la fine di una lunga storia fatta di boria, finita la cicoria. Storia malata di gente rassegnata. Storia demente di inconcludente gente. Maiali, cervelli perduti e uomini fottuti. Guarda, guarda il mondo, stanco di esser tondo, facce tirate e menti limitate. Occhi delusi, pensieri un po' confusi, stanchi animali, forse un po' maiali. Occhi cerchiati e bimbi abbandonati. Fiumi esauriti ed alberi abbattuti. Terre polverose, madri un po' nervose, fame incombente per tanta troppa gente. Cieli ormai strappati, dormi bambino che ti racconto il mondo. Siamo animali privi di cervello, siamo maiali e distruggiamo il bene. Prendiamoci le mani come tanti nani, saltiamo felici, siamo tutti amici. Complici bulimici, patetici, nevratici, stirpe fatata, forse un po' setata. Ecco la fine di una lunga storia fatta di boria, finita la cicoria. Thank you. Buonasera, signor G. Mi conosce? Certo. Chi non la conosce? E poi io conosco tutti. Sì, ma... lei chi è? Oh, mi chiamano in tanti modi, ma... per lei sono un'amica. Un'amica che è venuta a tirarla fuori dai guai. Ma io non ho guai. Ci vabbè, qualcuno piccolo, ma... come tutti. No, no, no, no, guardi che il suo guaio è pensare. Ah, questo sì. E ormai non è più tempo di pensare. Infatti lei è solo. Molto solo. Il più solo. Ed io sono venuta a salvarla. Se continuasse diventerebbe patetico. Meglio chiuderla qui. Sì, ma... e il mio pubblico? E il mio prossimo spettacolo? Ah già, il suo pubblico. Il suo pubblico, sì, sì, sì, sì. Quello che l'applaudiva? Quello che rideva delle sue fatiche? Quello che, visto il suo dramma, si riprometteva di rifiutare lo schifo giornaliero e, una volta finito lo spettacolo, saliva in macchina e dimenticava? E il suo prossimo spettacolo lo farà per me? Sì, ma ci vuole qualcuno che dica la verità, che denunci, che inciti a partecipare. Rivoluzione! No, che c'entra rivoluzione? Ma almeno un po' di ribellione. Quale verità? Partecipare a cosa? Denunciare chi? Pessimista? Sì, sono pessimista. Perché lei non lo è? Ah no, io no. Io lo so che il popolo, la sinistra, gli operai, i giovani, le donne, i bambini. La smetta. Venga con me. Quelli come lei hanno chiuso. E poi non c'è più tempo. Là dove andremo starà in pace. No. Mi scusi, ma io in pace mai. Neanche là dove andremo. E poi mi scusi, signora, sa, ma il suo capo non mi piace. Troppo distratto. Vede, io, se fossi Dio... Sì, prosegua, prosegua. Se fossi Dio, le farei vedere di che cosa sono capace. Quando creo... che casino. Lasci tutto com'è. Tanto ci pensano da soli a fottersi. Fuori dagli schemi, non si sa bene cosa sono, forse ribelli, forse disertori, della follia di oggi soli, sono i nuovi pionieri. I soli e le sole non hanno ideologie, a parte una strana avversione per il numero due. Senza nessuna appartenenza, senza pretesti o velleità sociali, senza nessuno a casa frizionarli con unguenti coniugali. Ai soli non si addice l'intimità della famiglia, magari solo un po' d'amore quando ne hanno voglia. Un attimo di smarrimento, un improvviso improvviso senso di allegria, allenarsi a sorridere e nascondere la fatica, soli, vivere da soli, soli, uomini e donne soli. Dell'amore, sono gli ambulanti, sono gli dei del caso, i soli sono gli eroi del nuovo mondo coraggioso. I soli e le sole ormai sono tanti, con quell'aria un po' da saggi e un po' da adolescenti, a volte pieni di energia, a volte tristi, fragili e depressi. I soli c'hanno l'orgoglio di bastare a se stessi. Ai soli non si addice il quieto vivere sereno, qualche volta è una scelta, qualche volta un po' meno. Aver bisogno di qualcuno, cercare un po' di compagnia, vivere in due e scoprire che siamo tutti soli, vivere da soli, soli, uomini e donne soli. Un uomo solo è sempre in buona compagnia. Se io ho perso, chi ha vinto? Ha vinto chi pensa che qualsiasi dramma privato debba necessariamente diventare uno spettacolo pubblico. Ha vinto chi usa la disperazione come qualsiasi altra merce. Ha vinto chi sceglie di rimanere in famiglia fino a 40 anni, perché se è vero che crea qualche piccolo problema di spazio, è sicuramente meno faticoso. Ha vinto chi preferisce uscire la mattina vestito come un pagliaccio a cavallo di una bici da corsa e dimenticare che niente è bello e profumato come una donna. Ha vinto chi ha deciso di abolire tutti gli specchi e procedere ad una loro sostituzione di massa con schermi sempre più sofisticati, dai quali qualcuno provvede a farti sapere chi sei, se sei nel giusto, e cosa farai oggi, domani e dopo. Ha vinto chi farebbe di tutto pur di vincere, anche se gli dimostri che la vita non è una corsa impazzita verso un traguardo pieno di illusioni. Ha vinto chi non ha un'anima o è disposto a venderla a chiunque gli offra in cambio l'assenza di responsabilità. Ha vinto chi dà alla menzogna la dignità della verità di parte. Ha vinto chi pensa che la libertà Già, la libertà. Questa parola è stata ormai degradata ad allergia stagionale. Starnutisci un po', ti curi e poi passa. Ha vinto chi pensa che la democrazia... La mattina la desideri, a pranzo la sopporti, al pomeriggio la allontani e la sera, ormai stufo di parole come popolo, economia, elezioni, decisioni condivise, sacrifici, la vorresti esportare. Ci dovrà pure essere un popolo così cretino da crederci ancora, no? Ha vinto chi è solo e pensa che esserlo significhi essere migliore di chiunque gli stia accanto. È vero, io ho perso. E la partita non verrà rigiocata. Ma non è la fine del mondo. Il guaio è che i vincitori non hanno la minima idea circa la felicità, nella mia, nella loro, ma nemmeno la vostra! Parlato di tante cose. Abbiamo parlato d'amore, abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato di Gaber e vorrei chiudere questo se io ho perso chi ha vinto, parlando di figli. 20 anni, troppi per essere veri. Ci sei? Ci sei? Attenta, piccolo passerotto, un attimo e funi bianche avvolgeranno i tuoi pensieri proprio come gli anni, e sarai costretta a rallentare. Rallenta ora e guardami, vedi, ti prendo, mi prendo. Dovresti essere una nuvola, ma io ti appesantisco con i miei sogni irrisolti di madre, e tu non sei un mio sogno. Impediscimi di amarti. Il mio amore potrebbe essere veleno per te. Segui il vento. Lasciati avvolgere e baciare. Fatti bandiera, sì, una bella bandiera al vento. A 20 anni si può... Si può. Oh, potessi insegnarti ciò che non so, ciò che non voglio, ciò che nessun uomo deve sapere mai, quello che un Dio distratto non ha mai insegnato a nessuno. Fatti mare come tua madre quando ti ha voluta. Non nuotare, no, lasciati avvolgere da tutta l'acqua insipida del mondo, bevila e poi sputala lontano. Ascolta i fantastici suoni di marzo quando sei nata, perché sei nata, capisci? Una misera stazione gelata come marmo, come dentro un ospedale dove tutto è troppo bianco, da oceani di distanza nel vuoto del mattino, adesso che ogni cosa corre incontro al suo destino. La tua sagoma di spalle, senza la mia protezione, che già naviga distante in una fretta di persone, ognuna col suo scopo, con la sua direzione, ed io dentro la neve che mi piego come un fiore. E questo è il mio dovere, guardarti andare via. E questo è il mio dolore, guardarti andare via. E questo è il mio sapere, lasciarti andare via. E questo che fa male, guardarti andare via. Lontano dal tuo caldo, dal profumo del tuo sonno, lontano dal respiro che avrei strappato al vento, pur di avere ancora tempo, pur di rimanerti accanto, pur di non cadere dentro questo smisurato inverno. Lontano dai tuoi occhi che fuggono indifesi, lontano che non senti, lontano che non vedi, lontano da una casa che non ha più stagioni, lontano da ogni cosa che tu farai domani. E questo è il mio dovere, guardarti andare via, e questo è il mio dolore, lasciarti andare via, e questo è il mio sapere, guardarti andare via, è questo che fa male, lasciarti andare via. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positivo o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti bottoni, pistoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani. Far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile, ma che senso ha? È presente in me la misura della mia inutilità. Per oggi rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, ma se la lotta di classe, i testi gramsciani, far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India o in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Far finta di essere sane, far finta di essere vano. La mano nella mano, vanno tutte le cose, vanno, vanno, ingrossano piano piano le fabbriche, i grattacieli, le autostrade, gli asili comunali, e vedo i bambini danzare. Sanno se ridere o piangere e batto le mani, far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani. Thank you.